spettacolo sportivo, non mi dice proprio niente, a differenza del motociclismo, che è fenomenale, solo quando tu senti, ragazzi, il pilota con la spalla che fa la curva, come si piega, che quasi striscia per terra, non hai detto niente tu, ci vuole grande, ma grande abilità di pilota per fare certe cose. Vai a Romè. Sì, infatti ormai la Formula 1 è monotona, è diventata, io a parte la sto seguendo da quando la Ferrari ci ha sceso i vasi, però il problema è che adesso vinci la gara perché la gomma tua si è consumata di meno, non perché sei più bravo tu, no, perché tu puoi essere più bravo del mondo, però se la macchina ti consuma male la gomma, perdi quel mezzo secondo al giro e perdi la gara, oppure hai fatto un pit stop che quello ti ha messo un secondo in più a fare il cambio gomma e perdi. Non esiste più come ai tempi di 20 anni fa, quando proprio si aveva ancora il pilota, adesso hanno messo un sacco di porcherie, questi pit stop, e lasciali camminare tutta la gara finché non si rompono senza obbligo di cambiare le gomme, cioè se si sono messo a rompere ti fermi le camere, per forza invece le gomme fanno quel numero di chilometri e non puoi farne di più e ti scombussola tutto l'andamento della gara, tu sei tutto il primo, tutto il percorso, poi gli ultimi tre giri magari la gomma si è consumata e quello è il bello, prima invece era tutto diverso la Formula 1, contava molto di più il pilota. Sì, diciamo che la distinzione che fra l'automobilismo e il motociclismo sta nel fatto che l'automobilismo è una gara di squadra, perché è tutta l'equipe della squadra, eccetera, si prodiga quando c'è da cambiare le gomme, insomma tutte queste cose qua. Mentre invece nel motociclismo sei tu individuale che corri per te e per la gloria e soprattutto per gli altri, per gli sportivi intendo, non per gli altri inteso come squadra. La differenza è proprio quella, ecco perché io apprezzo molto di più il motociclismo a differenza dell'automobilismo. Per me l'automobilismo è molto più semplice, più facile, è meno glorioso quando vince un pilota della Formula 1, per me è meno glorioso di quando vince un pilota del motociclismo. Vai Eugenio. Sì, infatti. No, io, ma anche quando c'era Schumacher, tutti Schumacher qua, Schumacher a me non mi ha mai attirato sinceramente a Formula 1, forse perché sono più, diciamo, predisposto per le due ruote, non lo so, no, comunque a me la Formula 1 non mi ha mai piaciuta, e mai ne guarderò perché chi parte primo, arriva primo, tutta la partenza, tutta la partenza. La partenza, perché poi ti posizioni in partenza e lì finisce la gara, te la porti dietro fino all'arrivo, è una paranoia e niente. E prendi Gianfranco così. Aspetta, dice dal telefono Gianfranco, sei rientrato Gianfranco? Natalino? Natalino si è messo al computer, l'avete sentito poco fa, ha detto che aveva da fare al computer. Sì, ma è così, in effetti è così, io oggi la macchina è un discorso, la moto è un altro, ci vuole un'altra capacità e soprattutto un altro coraggio. Per me il motociclismo, poi il motociclismo. Continuate il vostro questo, vi sto ascoltando. E ciao Gianni, vai Giulio. Ok, ciao Gianni. Sì, va benissimo lo stesso già ascoltare, non c'è problema, comunque al limite ci dai il tuo codice fiscale, poi ti manderemo la fattura per il compenso dell'ascolto a casa, per cui a fine anno casomai a Natale, non adesso, a Natale, quando avrai la tredicesima, così non soffrirai più di tanto, già. Oh, yeah. E diciamo la verità che in quest'ultimo periodo sei molto assente già, sì, così sporadicamente di tanto in tanto ti fai sentire, è vero, però evidentemente hai anche altri interessi più importanti per te che assolvi molto volentieri, tralasciando tra l'altro un po' la passione per la CB. Va bene, buon ascolto già, cosa vuoi che ti dica? Nient'altro. Bene, sono andato a Romè, che ci facciamo pagare i diritti d'ascolto. Ok, allora, Ok, buonasera, Uranio dall'altura, buonasera a tutti. Anch'io ero in polizia di ascolto, mi stavo ascoltando qua, sto controllando qua la situazione. Vabbè, mi serviva un controllino come si sta arrivando lì. Vabbè, buonasera anche a Giulio, buonasera anche a te di nuovo e buonasera anche all'amico che è ritornato in colletti d'ascolto. Vabbè, a te Roberto l'immagine. Il tuo rapporto è 9 più 5, Radio 5. Avanti Giulio, dagli un rapporto anche tu. Sì, Radio 5 Santiago 8, oggi un pochino meno dell'altro giorno, Francesco, ciao. Raccontami, sei andato a goderti la fresa lì nel tuo paese o Francesco? Saluto Francesco, saluto tutti. Giulio, allora a me mi aspetta la fattura più alta, avanti Francesco. Buonasera Claudio. Negativo Giulio, negativo, non sono uscito da nessuna parte. Io ogni tanto, come diceva la parola di mio padre, che uscivo tutti i giorni, mi diceva sempre, non ce ne mette uno e mezzo, mi. Tutti i giorni esci, mi raccomando, mi. E si incazzava pure, a due, canta. Adesso ho imparato io, adesso iniziamo a scalare, a posto di uscire sempre, usciamo una volta ogni tanto, così risparmiamo anche qualche lira. Va bene, ok, sì, sto scendo meno dell'altra volta perché ho diminuito potenza qua, perché mi sono accorto che c'è qualche problema in antenna, per votare. Quindi ho diminuito per quello, vai, riprendi Roberto. Ehi, aggiunto là al discorso, c'è la Play TV e noi facciamo la Play Radio, li diamo decollere con la scheda prepagata, ci facciamo pagare i soldi in anticipo e poi diciamo un mese, il primo mese glielo diamo gratis d'ascolto, poi dobbiamo fare il contratto almeno per 6 mesi. No, per Claudio no, o Roberto, per Claudio no, perché Claudio con gli anni che ha militato, che sta militando ancora oggi in frequenza, ha tutto il diritto di godersi il suo pensiero. Il suo pensionamento in ascolto eccetera, per cui che poi tra l'altro ci onora di tanto in tanto almeno per i saluti, per cui per lui niente fatturazione o Claudio, per te niente, tu sei abbonato al 100%, anzi al 1000 per 1000, no, non ti chiediamo niente, nessun rimborso o Claudio. Come si suol dire, io ho già dato, quindi adesso basta, ogni tanto entro vi saluto e già va bene così, l'importante è sappiate sempre che io ci sono, non è che non ci sono, ci sono sempre. Ciao Francesco, vabbè, noi siamo vicini, è 9 più 20, mi stai arrivando alla 10.5 come sempre, anche se abbassi la potenza non è che succede molto. Sì, davanti a me, così non lo vedo, mentre prima non lo vedevo, adesso lo vedo tranquillamente. Ok, un abbraccio di nuovo a tutti, a te Roberto. Ehi, ciao Cla. Cosa volevo dire? Ho perso il filo del discorso, vai tu giù. Ok, appunto stavamo parlando dei diritti d'ascolto, almeno io mi sono riferito a quello, per cui, come stavo dicendo, Claudio ha maturato i suoi diritti e dunque va bene così, non c'è nessun problema, ci mancherebbe altro. In quanto a Francesco, vabbè, lui, sì, io l'ascolto bene perché Santiago 8, Radio 5, però di tanto in tanto lui si lamenta con qualche problemino in antenna, eccetera. Ma questa antenna tua com'è? Di cosa? Di fico secco? Ho fatto dei grisantini, dai, o Francesco? Come mai questa antenna tua ha sempre dei problemi? Tutte le volte dici che c'è qualche problema in antenna? No, veramente con quell'antenna mi pare che ho preso una mezza fregatura, per dire una fregatura intera, perché non va bene. Non va bene, infatti la devo dire un ricambio, devo comprare una nuova antenna. Ok, non dico quell'antenna, se no non va bene da un po', va bene, dai. Ok, ma sto usando, come ho detto una volta, la M Super 16, ma niente, come avanti potente c'è un ROS, infatti qua sto usando il vintage e rossa, via diminuire la potenza, infatti adesso siamo calati a circa 2, niente, vai, non sono più problematiche, ma sono rosso lo stesso, vabbè, non faccio passaggi lunghi, Senti, tu aspetta, facciamo un attimo il bianco, così se nel frattempo qualcuno vuole entrare. Avanti, se c'è qualcuno, Gianfranco. Gianfranco non c'è, a quanto sembra. Sì, vabbè, evidentemente qualcosina c'è. Se hai due stazionari controlla bene, non so, oppure sarà pure con l'antenna, ma non sarà come la Range di una volta, no? Che bastava un po' di umidità che c'era sempre, il ROS molto alto. Questa LM16 io l'ho sentita, l'ho vista anche tantissime volte al computer, ho letto anche tutte le sue caratteristiche, apparentemente sembra una buonissima antenna, poi alla fine il discorso è sempre quello, le vere antenne per la 27 sono ormai fuori produzione, no? Non ci sono più, sì qualcuna c'è, qualcuna nuova evidentemente, però la numero uno è senz'altro stata sempre la Mantova, sia la 1, la 5 e anche la 8, anche se ultimamente la 8 non era a livello di 1 o di 5, però diciamo che rimangono sempre la numero 1 come antenna per la 27, anche se oggi c'è qualche antenna fatta in maniera decente come la Graziuli, la Game Master, che la Game Master io mi ritengo abbastanza soddisfatto di questa antenna che ho, e poi qualche altra, la Cipolle per dire, eccetera eccetera, insomma due o tre antenne già ci sono ancora buone, scegli la migliore o francese devi cambiarla di nuovo e auguri, non posso dirti altro, vai francese. Sì, questo lo prendo così per provare, ma cosa fare? Vabbè che io non avevo manco insistito con la cosa dura, perché eravamo in due, quando mi sono rotto le scarpe, ho detto basta così, mi sono già rotto le palle prima del tempo. L'ho lasciata così, ma non lo so, intanto manco insisterci con l'antenna lì, mi pare che non dia risultati come si deve, ma ancora corto. Quindi con la lì, quando sarà il tempo e il momento giusto, di nuovo rismontata, rimballata e appoggiata in qualche angolo della catapecchia, con calza e via. Niente, ce ne piacerà un'altra, vediamo un po' cosa piazzare. Ho visto una bellissima, adesso vediamo un po' se ne qua. A farmela avere lì, perché non posso fare ordinazione online con quella carta che ho, non c'è online, ok, va bene, e quindi mi devo arrangiare di altre maniere. Perfetto, riprendi Roberto, tu qua stai arrivando a 9.20 sta arrivando, Claudio invece sta arrivando a 9.20 più di P. Ok, ci metto il DB. Tu, Giulio, mi stai arrivando circa Santiago Rover, Radio 5, perfetta, per tutti e niente di più. Ok, riprendi Roberto. Sì, io voglio aggiungere una cosa, che molte volte questa cosa non è molto controllata. L'antenna, prima di tutto, è la fondamentale dopo il trasmettitore. L'antenna è il primo punto di riferimento, però molti non curano la linea, per cui ci vuole un cavo buono e soprattutto le connessioni vanno fatte bene, i connettori, usare connettori di qualità e PL, non usare roba scaccina, perché quelli sono fondamentali, soprattutto d'inverno se c'è umidità, sempre connettori di altissima qualità, meglio spendere 2-3 euro per un PL che prende uno da 50 centesimi per risparmiare. Quelli ricchi dell'Amphenol, quelli in bacchelite sono eccezionali, saldati bene, soprattutto saldature belle calde, fatte bene, non fredde, sigillare bene la calza in modo che non si formi dell'umidità dentro, chiudere tutto bene, mettere grasso di vasellina e l'impianto non deve dare nessun problema, deve andare in modo indefinito finché non ne va l'antenna. Io ce l'ho dal 2004 da Mantova e non ho mai avuto problemi di stazionare, mai e mai, facendo le corna. Ho fatto il lavoro come deve essere fatto, tutto lubrificato bene, messo grasso di vasellina, sigillato bene e poi sopra il coso vulcanizzante, non c'è un passaggio di acqua, c'è lo sfiato, vabbè con l'antenna l'avevo un po' modificata, è stata cambiata qualcosa, l'attacco a piede a pannello l'avevo sostituito con uno di qualità, anzi mettere quella cagata che c'era originale con quei rivettini che non serviva a niente, l'ho fatto bene, ben fatto dall'esterno, la saldatura, si posso dire grazie a Dio l'antenna mia sta sempre a andando e non ho mai avuto un problema di stazionare. Io lo fate Giulio. Ok, beh, certo, hai detto bene, infatti è quello che bisogna anche considerare. Intanto l'impianto deve essere fatto con i dovuti modi e con la massima accuratezza, certo, è così. Ma io nel mio quinto decennio della 27, prossimo, a febbraio prossimo, devo dire che di antenne io ne ho avuto, ti dico subito cosa. Inizialmente ho avuto una Grand Prix dell'ALM con quattro elementi, l'ho tenuta poco, qualche annetto, ma proprio qualche annetto, e andava bene, la verità, però erano altri tempi. Poi successivamente ho avuto la Stella l'avrò tenuta 30-35 anni, una cosa del genere, e devo dire che oggi come oggi, se devo promuovere un'antenna fra tutte quelle che poi ho usato dopo, che poi l'altra è la Mantova Turbo, e adesso successivamente, a parte quella autocostruita che avevo eccetera, ma adesso la Game Master, io devo promuovere, a questo punto devo promuovere la Stellar 16 radiali, che mi ha dato tante di quelle soddisfazioni. Non a caso sono riuscito anche a trasmettere con la in distanza molto ma molto lunga, veramente, e mi è durata 35 anni, fin quando tutti i volatili, i piccioni compresi, me ne hanno buttato tutti i radiali, premesso che i radiali erano appena lunghi 70 cm, non di più, però era un'ottima antenna. Oggi come oggi, se la dovessero ricostruire e se io avessi necessità di comprare un'antenna, la ricomprerei ad occhi chiusi, senza pensarci su due volte, perché era veramente un'ottima antenna. Premesso che poi la numero uno è diventata la Mantova, non ci sono dubbi, in qualità soprattutto di struttura meccanica eccetera, e poi adesso la Game Master, che io sinceramente sono soddisfattissimo, soprattutto perché non sento nessun rumore durante la notte, a differenza di prima, che quei 8 radiali della Mantova Turbo mi disturbavano il sonno in una maniera impressionante, troppo rumoroso quando c'era molto vento, tutto lì. Roberto, vai. Sì, adesso lasciamo un attimo di bianco, se qualcuno vuole rientrare o entrare, avanti, nulla, di nuovo a te Giulio. Appunto, è quello che io stavo dicendo, io ripeto, la Stella ce l'ho nel cuore, la verità, perché l'ho tenuta tantissimi anni, fin quando non sono caduti quasi tutti i radiali, perché gli ultimi che erano rimasti, mi sembra che erano rimasti 4-5 radiali, non di più, ma e nonostante tutto, senza i radiali, che ripeto ancora una volta, erano 16 i totali, e andava, che era una meraviglia, veramente, mai avuto questioni stazionarie, nulla, anche utilizzandola anche con cavi poco schermati, come il RG58, magari di quello buono, con la carta stagnola, eccetera, eccetera, questo sì, però devo dire che mi ha soddisfatto anche quella, anche oggi è tutto un altro discorso, oggi ho il cavo H1000, oggi già da alcuni anni, penso che sia anche il cavo migliore in assoluto, almeno per la 27, poi se parliamo di trasmissioni radio amatoriali, ci sono cavi ancora superiori che giustamente sarebbe bene utilizzarli, ma la H1000 è già un grandissimo cavo. Francesco, vai. Io con la cavo qua sto usando l'RG214, l'avevo preso da Mecchioni prima di chiudere, l'avevo preso, c'è anche la stagnola dentro, doppia carta, c'è doppia carta, stagnola, c'è quella roba lì, e il cavo già è buono, io le sto usando i soliti che troppo, ovviamente, comunque questa stella ce l'ha corso, Marino di Ostrava ce l'ha questa antenna bella, ok, e arriva bene qua, arriva, mi pare, a Ostrava, non per mio pare che arrivi di Ostrava, niente, comunque un'antenna lì ce l'ha, evidentemente con l'antenna lì non è più in funzione, sia da quanto tempo ce l'ha lui, e quindi ce la sta facendo durare. Bene, bisogna prendere quelle che sono le antenne, in commercio ce ne sono poche adesso, non è più come prima, come una volta, come quando tipo sono entrato in frequenza, una quarantina di anni fa, prima c'erano le antenne di tutti i tipi, tutti i modelli, adesso ci sono pochi modelli in tutto, bisogna scegliere quello che c'è, capito? Comunque ho sentito anche delle critiche su questa antenna che sto usando io, non è tanto, diciamo, favorevole. Io l'ho presa perché non sapevo niente di questa antenna e l'ho presa così, ma è pagata anche un bel po' di soldi, ho pagato 240 euro con l'antenna lì, non ho pagato 2 lire, 240 l'ho pagata, capito? Oggi ho visto un'altra antenna lì, come stavo dicendo, ho due elementi, bellissima, e speriamo che vada bene, ma vediamo un po', potrebbe anche il nuovo, tanto non è che ci sia niente di male, tipo la chain pole, vediamo un po' quella lì, per vedere come va. Ok, mi hanno fatto vedere qualcuno lì, diciamo, dal computer, non so, mi ha suggerito quella lì. Va bene, riprende, non posso, te il cambio. Io con l'antenna e 8 ottavi è una bomba. Sì, io ciao Claudio di nuovo. Io ho visto un video relativo alla J-Pole e mi ha convinto. È un'antenna oltre la 5 ottavi, se ricordo bene, adesso non vorrei sbagliarmi, ma 8 ottavi. 7 ottavi. Per la verità, no, o qualcosa del genere. Non te lo so, infatti è lunga, lunghissima, mi sembra che sia oltre gli 8 metri, 8,40, 8,50. Il video alcun... Non esiste, 8 ottavi, lunghezza d'onda intera, un'onda intera, e 7 ottavi contro. Il computer si basa sempre su queste cose qua, no? Non so fare altro, no? Anzi non mi interessa addirittura fare altre cose, però l'elettronica la seguo abbastanza, sempre tramite il computer, come seguo anche i giornali sportivi, anche il giornale quotidiano della Sardegna, Sassari, eccetera. Per cui mi ha un po' convinto, mi ha impressionato quel tipo di antenna, ascoltando questo video che è su YouTube, io mi batteco molto su YouTube e appunto stavo guardando e devo dire che è un'antenna che mi convince. E com'è quell'antenna tu, Cla? Mi stai dicendo che ce l'hai tu, non lo sapevo che avevi questo tipo di antenna. Avanti Claudio. Sì, io ho la Smart Tech, non vorrei sbagliare, se è una 7 ottavi o 8 ottavi, comunque 8,50 metri, J-Pole, praticamente J-Pole per 27 MHz, quello 27 VG Smart Tech, allora è una... ottavi, non può essere 8 ottavi, l'onda intera non ci sono le antenne. DB imperete, 5 kW, lunghezza 8,5 metri, ha preso 7 kg, ma non capisco. Vabbè, riprendi Roberto. Allora, basta capire che l'antenna è lunga 8,50 metri, per cui per essere 8 ottavi, che non esiste, dovrebbe essere lunga 8 metri, cioè 11 metri, tolto il 5% chiamiamole tolleranza, quando si fa il calcolo della lunghezza dell'antenna, è un 7 ottavi, e quello l'avevamo vista insieme, l'avevamo guardata, è una grandissima antenna, è un progetto di vecchia concezione, molto vecchio, l'hanno usato, addirittura usavano nei dirigibili tedeschi, e l'hanno migliorata, hanno fatto un breve questa ditta che la costruisce, una grandissima antenna, c'ha di buono che in una direzione è un po' più direttiva rispetto alla mantova, per cui secondo dove si è visto nella posizione di Claudio, che è molto in alto, in certe direzioni va meglio della mantova perché c'ha questa specie di direttore davanti che è alto circa 2,5 metri, è una grande antenna. Il discorso dell'antenna ormai non c'è più mercato perché non viene usato più di CB, per cui nessuno ha interesse a produrre, a parte questo Graziuri che si è separato dalla mantova, la verità mantova, ma tecnologie, posso cambiare materiali, ma ormai la fisica delle antenne è quella lì, non è che puoi inventare niente di nuovo. Di nuovo a te Claudio. Sì, non sono altro. No, per l'antenna Giulio non è la cosa, come si chiama quella dicettura, questa è tutta in alluminio, decimo è capitolo eccezionale. Ok, qua, sì, certo, no, io ripeto, sì, quello che stai dicendo tu, proprio quello è il video che avevo visto, e mi ha impressionato, solo che quello stilo forte che c'è, probabilmente è stato costruito per praticamente a sostegno di quel radiale centrale unico, quello lungo, 8 metri sono tanti, è la verità. Poi le dimensioni del materiale, questo non te lo so dire, il diametro ad esempio dei tubi eccetera, perché essendo in alluminio un certo diametro, 8 metri ci dovrebbe essere un certo diametro partendo dalla base e andando e scalando elemento per elemento. Penso che quel radiale corto, che poi ha una specie di tirante o cosa è, non so se quel tirante è una cosa rigida o se è un qualche filo di collegamento, non te lo so dire, la verità. Domani me lo direi tu. Io ho pensato che quello magari è per sostegno dell'asse centrale, lo confermi? Un attimo, dai, io vi saluto tutti cordialmente, sto facendo fuori T. Ciao a tutti. Ciao Gianni, alle prossime. Vai Claudio. Ciao, non sapevo c'era anche Gianni, ciao, buonasera, buon ascoltato. Quello praticamente intanto non resiste, non risente della vicinanza del suolo, però può mettere anche a un metro da terra. Ok, quello è l'angolo basso di radiazione, la radiazione principale. Poi serve anche per la curvatura dell'antenna. Io quando l'ho piazzata, quello lì era tutto giù, praticamente c'erano 5 stazionarie, poi mi sono letto il manuale e ho iniziato a tirare su sino a 1,50 m, 1,60 m. E praticamente le stazionarie sono al zero completamente, dal canale 1 al canale 80, ma non solo, anche in 10 metri, anche in 20 metri, anche in 40 metri, no, non mi crea nessun problema. È robusta Giulio, è molto molto robusta, l'antenna costa più di 200 euro, ma è molto robusta, è fatta bene, cioè non ha cazzate, capito, è fatta molto molto bene. Soprattutto a lunga distanza, capito? Tutto qua. Se la devi prendere, Francia, prendila, perché è un'antenna eccezionale. A me me l'hanno consigliata. Me l'ha consigliata, guarda Giulio, il tecnico che ti ha riparato la radio, è diventato concessionario ufficiale per l'Italia di questa Smarttech. Siccome io mandavo dei quattrini da lui, perché mi doveva mettere sempre quel benedetto filtro, che poi l'abbiamo messo qua a Sassari tramite un carissimo amico che tu ben conosci e mi ha aiutato tantissimo, e quindi mi ha detto: cosa fai, ti mando i soldi o... Ho detto: perché, cosa mi proponi? E mi ha detto: guarda, se ti va ti propongo, non voglio assolutamente la differenza, perché lui aveva 100 euro mia, non voglio assolutamente, io te la mando, la piazzi, la provi e poi me la paghi. E quando l'ho piazzata, l'ho montata, sono rimasto entusiasta veramente, un'antenna veramente eccezionale. Confermo. Sì, ma ripeto, io non sapevo nemmeno che tu avevi montato questo tipo di antenna, pensavo che avevi la vecchia antenna che avevi prima nella casa vecchia, te l'hai trasferito lì, io avevo pensato quello, la prima cosa che sento. E appunto, come ti stavo dicendo, sono rimasto attratto e impressionato dal video che ho visto, perché mi ha convinto, insomma, il video che ho visto mi ha convinto su YouTube questo tecnico che la stava provando e ha fatto dei discorsi che mi sono piaciuti, ecco, devo dire. Tu adesso me lo stai confermando, per cui va bene così. Certo che sì, indubbiamente, insomma, un'antenna poi di quella lunghezza, non c'è che dire, ha praticamente il massimo della resa, non ci sono dubbi, per cui va bene, molto molto bene, sono contento, guarda, veramente, sì, che lo sai, perché anche Claudio te lo sta dicendo, se devi cambiare antenna compra quella, altre volte abbiamo vantato, io soprattutto ho vantato la Game Master, io ripeto, ce l'ho la Game Master originale e sono soddisfatto, però fin quando funziona chiaramente non dovrò cambiare altre antenne, e poi tra l'altro sempre la Mantova Turbo al limite, no? Ma quella l'ho messa da parte, per me ce l'ho messa da parte, un po' mi dà fastidio, un po' non me ne dà, mi dispiacerebbe anche disfarmene perché è sempre un'antenna che ho nel cuore, però non so cosa farmene, ecco la verità, devo essere sincero, non so cosa farmene, della Mantova Turbo sto parlando. Avanti, vabbè. Brecco. Avanti, Brecco. Ciao Fabrizio da questa parte. Ciao Fabri, ben sentito, compagnia mia di Claudio, di Giulio e di Francesco D'Auso. Avanti Giulio, Fabrizio. Ok, ciao Fabrizio, ben ascoltato, te lo posso anche dire perché stai uscendo molto bene. Avanti Fabrizio. Grazie del controllo, lo chiedo più che altro a Roberto o a Claudio, perché ho finito questa radio che l'ho chiusa, l'altro giorno abbiamo regolato poi l'eco, la camera eco adesso me l'ha fatta un po' abbassare Marco, per vedere un attimino, però bisogna capire se sta andando bene, nel senso che già Claudio sa perfettamente di cosa stiamo parlando, perché sono quei baracchini da camionali. Se va meglio così o magari la devo sollevare leggermente. Riprendi Claudio. No, ciao intanto Fabri, assolutamente, per me è ottima, una radio fortissima, bella, con l'eco giustissimo, perfetta Fabri, secondo me non hai niente da regolare. Sentiamo un po' Roberto. Prova a parlare Fabri, non ho visto il livello di microfoni. Sicuramente sarà tutto sparato, queste sono tutte modificate. Guarda un attimino. No, il livello va bene, però l'eco non lo sento io. Non lo senti? Proprio poco, lo aumento leggermente o lo lascio così? No, io non lo sento l'eco, c'è un leggerissimo riverbero sotto, ma l'eco non lo sento. Il livello microfonico va bene, l'intensità. Il riverbero c'è, magari va meglio così, non lo so, che aumentarlo, perché aumentarlo magari dà un po' di fastidio anche. No, l'altro giorno ce l'avevi, non lo percepisco io l'eco, confermate voi. Io confermo anch'io, l'eco non lo sento, la radio è bellissima, il segnale è fortissimo perché è 9:15 quasi, per cui la sento molto molto bene, pulita la radio, chiara, bella, intelligibile, ma ecco sinceramente non le sento nemmeno io. C'è l'amico lì a Osimo, magari vediamo un po' lui cosa ti dice, ti può dare un controllo lui, probabilmente è più apprezzabile anche perché sei lontano. Avanti Francesco per Fabrizio, dagli un controllo, vai. Ok, Fabrizio, allora, no, ma io qua ribadisco lo stesso, niente, con nulla, ecco, la radio 5 è perfetta, bella, chiarissima, il segnale da 6 con pic positivi a 9, nient'altro di più, ok, però niente, ecco, nulla, ecco, avanti Fabrizio. Va bene, ti saluto. Allora facciamo una cosa, adesso quello è il puntino praticamente delle chiacchierate normali con la modulazione che deve andare, adesso lo metto un attimino, ecco, adesso lo metto in questa posizione, vediamo un attimino, tanto lo regolo dall'esterno, vediamo un attimino se adesso ti piace di più Roberto o devo diminuire. No, va bene, adesso si sente, lo puoi anche alzare Fabri, rimettilo come il primo passaggio. Allora, questo era il primo passaggio poco fa, questo è il secondo passaggio e questo è il terzo passaggio, di questi tre quale preferisci? Allora, a livello di camionista il terzo è il migliore di tutti. Quindi così è proprio da camionista, però disturba. No, assolutamente, è uguale, la modulazione non cambia niente. A te Giulio come ti sembra? Va benissimo, è un eco apprezzabile, non è di quel riverbero prolungato, no, assolutamente, è ripetitivo, questo sì, però è chiarissimo anche il riverbero, a differenza di tanti altri che magari le sento, con molto schippi di riverbero, però poi magari alla fin fine non si capisce più di tanto. Questo invece, nonostante che sia abbastanza alto, è buono, molto molto buono e chiaro, molto intelligibile. Roberto, Fabri, va bene, dai. No, è perché l'altro giorno con Claudio abbiamo regolato un pochettino le ripetizioni, però quelle vengono regolate dall'interno, siccome ho finito questa radio di fare un po' di modifiche abbastanza pesantemente, volevo fare esso e chiusa, e quindi volevo vedere un attimino di regolare l'eco. Con Marco poco fa l'abbiamo regolato, ovviamente è più che altro da salotto, con un po' di riverbero, e invece così ho fatto due tacchettine per capire i vari tipi di regolazione. Quindi questa, diciamo, è quella un po' da camionista, quella che come deve essere questo apparecchio quando viene, e l'altra magari è un po' più da salone, da più tranquilla, giusto per capirci. Così c'ho un paio di indicazioni. Ok, quindi siamo in quattro. Riprendi, Claudio. È molto semplice, Fabrizio. Quindi il primo passaggio è da salotto, il secondo già può essere da un po' da combattimento, il terzo proprio da autista di camion, tutto qua. Però posso dire con tutta franchezza che tutti e tre i passaggi sono bellissimi, la radio è molto chiara, molto bella, molto presente, c'è una presenza fantastica, mi piace tantissimo, quindi in qualsiasi modo tu la usi, a discapito di chi appunto riceve la tua modulazione, con chi stai parlando, a me non dà nessun fastidio, quindi il secondo passaggio è più che sufficiente, tutto qua. Avanti, Roberto. Sì, una domanda a Fabrizio, tu cosa puoi intervenire, Fabrizio? Puoi aumentare la velocità o il tempo da fuori, dico, solo per capire. Da fuori questo, quello che stavo aumentando, adesso la porto, guarda, 1, 2, 3, 4, questa roba qua posso aumentare. Il tempo puoi aumentare, il delay no, la velocità no, va benissimo, non deteriori la modulazione, perché al contrario di molti eco, come aumenti la velocità sporchi tutto, invece rimane stabile, aumenta soltanto la ripetizione, va più che bene, naturalmente per chi piace questo tipo di radio, a me sinceramente l'eco non le farei bene a meno, comunque va più che bene, chiara e pulita, non sporchi niente. E infatti adesso l'ho abbassata ed è tra quella del salotto, diciamo, quella proprio che c'era un leggero riverbero, quella che è un po' più da camionista, e questa l'ho messa al centro, dovrebbe essere diminuito, e dipende da quello che vuoi fare. Non va bene, era giusto per capire, io poi non ho nessuno, poi magari se lo metto lo dovrei anche ascoltare, sì, ho capito, va bene, dai, riprendi Giulio. Ok Fabri, sì, va benissimo, ripeto, anche dandogli profondità va bene lo stesso, è sempre chiara, non c'è problema, però io essendo un pochino più distante rispetto agli altri amici sento molto molto bene il terzo passaggio, veramente uno, comunque sono tutti buoni, dal primo sino all'ultimo che hai fatto, anche quello più profondo possibile, vanno benissimo tutti, la radio è chiarissima in ogni passaggio, per cui non c'è problema. Oh Fabri, va bene così, io direi, secondo me, di lasciarla com'è, perché hai fatto un buon lavoro, non ci sono dubbi, va benissimo al 100%. Riprendi ancora, vai, e chiedi un po' controllo magari a Usilo, vediamo un po' cosa ti dice quando hai dato un po' di profondità. Vai Fabri. Adesso è proprio un po' di più, dai, quella del terzo passaggio, vediamo lì a Usilo come stiamo andando e anche il segnale. Benissimo, benissimo Fabrizio, benissimo anche qua, Santiago Lupe, Radio 5, e quell'eco va benissimo, perfetto, bellissimo, bellissimo, mi piace. Complimenti per l'eco e niente, tutto a posto. Va bene, riprendi Claudio. Sì, ma va bene, ho fatto un ottimo lavoro, ho visto anche il video e ho fatto veramente molto bene, perché intanto intervenire su quel tipo di radio lì non è molto facile, perché è piccolo, quindi tutta la componentistica va assemblata in modo particolare, va seguita molto bene, ha fatto bene. trovato lì, te lo vedi, ho trovato anche i complimenti su WhatsApp, veramente un bellissimo lavoro, fatto bene con criteri, ho seguito bene, il funzionamento è ottimo, ottimo veramente, la radio è molto bella, ho visto quando schiacci si illumina del rosso il PTT, molto bella, complimenti veramente. Ottimo lavoro, vai Giulio. Ok, sì, confermo ancora una volta, ottimo lavoro veramente. Io devo anche chiarire una cosa, io proprio da camionista non la sento un eco bello, profondo, chiaro, forte, con tutti i pregi di questo mondo, però non la definirei una modulazione da camionista, perché ci sono certi camionisti, per carità, con certe ripetizioni che non finiscono mai. Questa è bella in tutti i modi di ripetizione, dal primo passaggio sino all'ultimo. Va bene così, va bene anche per il salotto, anche con un eco profondo, no, non c'è problema. A chi piace, a me devo dire che l'eco non è che mi gusta molto, però ho apprezzato tutti questi passaggi, li apprezzo tutti, perché la radio non si inclina per niente, è perfetta, chiara, proprio molto molto bella. Oh Fabri, vai. Sì, no, è solo un problema dentro la scheda, ci sono varie regolazioni, prima il clock, che sennò ti incasina tutto. Una volta che trovi quello, poi c'è il 3-1 e l'uscita, che deve essere, non devi esagerare, comunque deve essere con l'ingresso della scheda, ecco, è un attimo devi lì. E poi l'altra è sia questa che io posso regolare, che posso anche aumentare internamente, poi la regola da fuori, e l'altra invece è quella più importante, che abbiamo fatto con Claudio l'altro giorno, è quella che a te piace, le ripetizioni, che non è esagerato, capito? Invece alcune persone le vogliono in maniera esagerata, allora a quel punto non fanno altro che smanettare troppo quel trimmer. Volendo si potrebbe mettere fuori quella regolazione, però alla fine secondo me devi eliminare qualcosa, perché io già sui tre tasti qua c'ho i watt, ho messo regolabili, l'eco, praticamente quello che senti tu da camera eco e il microfono, non ho altri tasti, se no altri potenziometri, se no avrei potuto mettere anche le ripetizioni fuori, però più di quello già dietro, vabbè, poi ti mando, a Roberto gli ho mandato i video, dietro poi ti veniamo in flat, dietro puoi regolare, invece di metterli direttamente in fisso gli ho messo un piccolo potenziometro dietro, una monopolina nella parte posteriore vicino al PL, praticamente interna, e riesce a regolare il parlascolto per aumentarlo o diminuirlo. Ho capito Fabri, ma io ti posso dire solo una cosa, io la rassomiglio molto come modulazione al famosissimo microfono da palmo l'M300, ha una modulazione così chiara, perfetta, limpida, veramente, molto molto bella. Ti dirò di più, adesso non so che tipo di radio è, ma suppongo che sia un 48 o qualcosa del genere. Volevo dirti, se per caso fosse stato mio quella radio, io ti avrei detto, Fabrizio, lasciamela così, non me la toccare, perché va benissimo come l'hai regolata, come l'hai preparata, veramente. Io sono di questo parere, Fabri. Adesso guardo anche il messaggio. Vai Fabri. Sì, ti ho mandato il video, così la vedi. Anche a Roberto gli ho mandato il video, così la vedi che radio è. È il classico baracchino da camionisti. L'unico, mi parlavo anche con Marco, l'unico problema di questi è che la maggior parte non hanno più il chip, diciamo, dai, l'integrato del PLL, ormai hanno tutti un emulatore, anche i più vecchi, pagano i vecchi forse ce l'avevano, non si trova più quello lì, e quindi la storia dei canali, la moltiplicazione dei canali, c'è cioè 40 sotto e 40 sopra, tende a morire di frequenza più sale in alto, però non si può fare niente, bisognerebbe mettere quello, oppure quell'altro sistema, bisogna cambiare tutto quanto, fare tutta la moltiplicazione, modifica quando io voglio la prossima volta la faccio, sono ben a riaprirlo, e lì si può modificare e dovrebbe farti vedere direttamente girando la manopolina, ti cambia di qua i canali positivi e i canali negativi, direttamente lo fai tutto dalla manopolina, eliminando l'interruttore, perché ho messo un interruttorino trivie per fare tutti i canali, però elimini quello e fai tutto dalla manopolina, c'è la modifica e prendono tutto il sistema, è un po' complicato da installare, però dovrebbe uscire bene. La prossima, se non voglio, più avanti farò quello, riprendi Roberto. E allora io non l'ho visto, visto che mi ha mandato un messaggio, ma lo guardo proprio con calma. Una domanda, la potenza quanto arriva con la radio? Intorno ai 12 watt più o meno, ho messo un MOSFET sotto e quindi intorno ai 12 watt, perché prima più di 4 non li tirava fuori, adesso 10-12 watt, diciamo che sul fischio tira fuori 12 watt più o meno. Ma adesso sei a piena potenza tu? No, guarda, adesso sono a circa un watt e mezzo, e glielo guarda adesso, guarda i picchi adesso. Posso fare anche così, la porto a mezzo watt, adesso dovrei essere mezzo watt e gli altri li sto dando in parlato. Vabbè, siamo talmente vicini, quasi 9,50 con i picchi. Magari lì a Osilo questa differenza la vede bene. Qua sono a quasi 0 watt. Avanti Osilo. Come dovete, se non fischi qua è zero, però quando fischi sali con i picchi a Santiago Rompe, la radio del 4, dai, ok, vabbè se è basso di passaggio, ma comunque hai i picchi a 9, da 0 a 9, capito? Sì. Un watt e mezzo e gli altri li diamo così. E vedi che quindi sta andando questo sistemino, roba che picchia, fa da 0 a 9, da 0 a 9 passa, vuol dire che è il classico, non ho capito, piace questo sistema. Ma questo l'hai fatto a scopo istruttivo o su richiesta di qualcuno, o in futuro li vuoi fare per qualcuno? No, beh, istruttivo, perché ne ho visto tante che le fanno, ho letto tanti, sembra che stiano facendo i segreti di Pulcinella, sembravano che stavano elaborando un camion in un baracchino, e te lo voglio fare a scopo istruttivo. Ho comprato un po' di roba e mi sono messo a lavorare, pure l'avevo abbandonata l'anno scorso e l'ho ripresa quest'anno e l'ho voluta terminare, ero curioso di vedere come usciva, perché comunque le vendono a prezzi cari, ci saranno circa 150 euro di materiale dentro, eppure vendono a prezzi cari, perché comunque in installazione c'è un sacco di lavoro, Roberto. È vero anche che magari chi le fa di continuo magari lei ci lavora, però c'è lavoro e c'è lavoro. Speriamo, lo immagino, però devi trovare appassionato, io non li spenderei tanti soldi per un baracchino, però i camionisti che lo usano per lavoro, per muoversi, spendono anche 400-500 euro. Avanti a te Giulio, che poi farà girare a Claudio. Ok, sì, è vero, oh, Fabri, quello che hai detto è vero, c'è gente, io ad esempio, come ho detto poc'anzi, seguo molto YouTube e vedo sempre questo tecnico del sud, adesso non ricordo bene se è in Calabria o se è in Puglia o qualcosa del genere, che si chiama Framic, cioè si fa chiamare Framic, e lui fa appunto tutti questi lavori, ma addirittura da tutta l'Italia le mandano le apparecchiature, a volte anche 3-4 apparecchi per volta, per farseli riparare, farseli modificare soprattutto. Anzi, ti dirò di più, c'è stato anche qualcuno qui dalla Sardegna, ad esempio da se ricordo bene, da dov'era? Usini, mi sembra, da Usini, una ragazza che gli aveva mandato un paio di radio, forse qualche ragazza camionista, questo non lo so, e appunto della riparata. Infatti di tanto in tanto, io ripeto che seguo molto YouTube, lo incontro, anzi addirittura ti dico di più, quando lui pubblica una riparazione, o un qualcosa del genere, e non so come funzioni il sistema, ne arriva addirittura la notifica, ne arriva di questo Flamic, non so se l'avete mai notato su YouTube, vai Fabrizio. Ho visto un po' di roba, perché sei iscritto al canale, quindi ogni volta che pubblica qualcosa ti arriva la notifica normale. È così. Sì, no, voglio dire, il discorso è che comunque se devi farti pagare il materiale c'è, il materiale costa, perché inizi a comprare, io qui ho dovuto prendere, o ti metti a costruirtela tu, però è da pazzi, allora non esci più, e prendi la scheda ecco cold, ha un costo, poi devi prendere il Roger VIP, poi devi prendere il doppio modulatore col trasformatore, la scheda a canali, e poi un finale nuovo devi prendere, e io non ho preso niente di particolare, ho preso un finalino da 8-10 euro, un MOSFET da 8-10 euro, però magari ne potresti spendere anche il doppio, quindi alla fine se ti fa un giro di conti i soldi ci vogliono, forse un 150 euro di materiale ci vuole, e poi ci vuole tempo perché devi aprire la radio, devi buttare giù la scheda FM, la devi levare, quindi la devi bypassare, togliere tutti i cavi che non è, devi dare la modulazione, poi devi eliminare il vecchio modulatore, lo devi eliminare, e ci monti il nuovo modulatore, e colleghi la scheda ecco, anche lì devi prendere ingresso, uscita, eccetera, cos'è, poi devi mettere il BIP, quindi interrompere tutta la parte del microfono per farlo passare lì, devi fare il parlascolto, devi modificare perché non va più bene come prima, devi prendere la nuova modulazione.